English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo di una mia grandissima passione. In questi giorni sta arrivando in Italia questa serie televisiva che io adoro e non potevo resistere, dovevo far parlare assolutamente i protagonisti ma anche i fan di questa serie, perché così ascoltiamo come mai è così amata negli Stati Uniti e sicuramente avrà tanto successo anche in Italia. Si chiama Glee, vi anticipo solo che si svolge all'interno di una scuola americana, come spesso succede, di una high school. È una storia che riguarda molto anche i musical, ma non vi dico molto di più, ascoltiamo subito le voci del cast di Glee. I mean, the first mall we walked into, they were all singing Don't Stop Believing, and that, you know, with the voices echoing through the mall was something that you're not going to forget that. Yeah. I'm going to remember somebody putting their baby on the table and having me sign it. That's what I'm going to remember from the Glee tour. It takes that whole Disney high school musical stereotype and it turns it on its head. It's a satire of that. It's good, that's why it's funny. It's really positive and uplifting, and it's about embracing the different in you and the underdogs just coming out. I just think it's more real. We kind of make fun of and do the things that real high school kids do. It's kind of that offbeat comedy that not everybody is happy all the time. You know, you have your ups and downs. I think the greatest thing about the show is that nobody is one note. Not one character, not one storyline falls flat. And over the course of these 13 episodes, you see such surprising elements from every single character. E queste sono le voci dei protagonisti di Glee, avete sentito tutte voci molto giovani perché, come vi dicevo, è ambientata in una high school, in un liceo, possiamo dire, no Giulia, in America? Sì, liceo in America dura 4 anni anziché 5, cioè matricola, poi sophomore, junior e senior, mentre noi abbiamo 5 anni, però è l'equivalente del nostro liceo. Abbiamo sentito tutte le voci una dietro l'altra perché sono tanti i ragazzi che compongono il cast di Glee. Intanto le immagini che possiamo solo raccontarvi sono quelli di ragazzi che cantano a squarciagola le canzoni della serie televisiva in alcuni mall, in alcuni grandi centri commerciali nei quali il cast andava a fare visita. Sì, quindi questi shopping mall che gli americani chiamano semplicemente i malls, e queste canzoni che erano echoing through the mall, quindi il cast era molto emozionato perché sentiva l'eco di queste canzoni che avevano cantato tante volte, però appunto attraversare i shopping center, sia perché venivano trasmesse sia perché tutti i presenti le cantavano, quindi c'era un eco enorme. Devo dire anche alcuni aneddoti piuttosto bizzarri. E uno di questi ragazzi dice: "What I'm gonna remember", sappiamo questo gonna molto usato dagli americani, un inglese avrebbe detto "What I am going to remember", ciò che ricorderò, un americano dice "I'm gonna remember", it's somebody putting a baby on the table, quindi una persona che ha messo un bambino, un bebè, un infante sul tavolo, having me sign it, e ha chiesto a me di firmarlo, speriamo con un pennarello non troppo indelebile. Ci sono anche delle considerazioni sul carattere di questo musical. Visto che appunto le canzoni sono, cioè diciamo, se dobbiamo classificarlo è un musical, però diverso dall'old Disney high school music stereotype, quindi diverso da quello stereotipo di quei film targati Disney che erano dei musical ambientati nel liceo, perché qui è più positive uplifting, ok, quindi positivo e che tira sul morale, to uplift, quindi questo come voleva fare Disney, però qui c'è questa embracing the difference, to embrace, vuol dire abbracciare le differenze, che porta appunto Glee in un'altra dimensione. Dobbiamo dirlo, i ragazzi che interpretano questi protagonisti del cast di Glee non sono propriamente i più in vista della scuola. Nelle storie americane spesso ci sono le persone, quelle più popular, quelle più belle, più sportive, e poi quelle insomma un po' di secondo piano, e loro sono proprio questi ragazzi meno fortunati. Sì, pensate che persino negli yearbooks, quei libri che vengono pubblicati alla fine dell'anno, ci sono sempre i most likely to succeed, cioè quelli che sicuramente avranno successo, perciò è una specie di destino, e per chi invece non è così è in generale definito un underdog, diciamo, non so, potremmo dire gli emarginati, insomma quelli che non vengono certo visti come i più belli, i più bravi, i più sportivi, i più intelligenti, i più popular, the most popular. Però in Glee c'è assolutamente sicuramente la rivincita. C'è la rivincita, perché la verità è sta appunto in questo, che non not everybody is happy all the time. Non tutti sono sempre felici, because you have your ups and downs. Hai i tuoi momenti buoni, i tuoi momenti cattivi, e la vita è così in fondo. La scuola però non è così facile come noi ce la ricordiamo. I ragazzi di Glee sono piuttosto giovani, anche gli attori, anche se non giovani come i loro protagonisti. Sentiamo come due delle attrici, Lea Michele e Amber Riley, hanno raccontato il loro, la loro scuola, i loro anni di liceo. You know, high school is hard. It is not easy. Just get by and get out of there, you know, as best as you can, because it's tough. But, you know, stay true to who you are, and it's okay to be whoever you are, however different you are, you know, be comfortable in your skin. It's really a lot like how my high school was, though. My high school was very, it was full of drama, just like that. And I'm happy to know that I'm not the only person that went to Melrose Place, Melrose Place High School. When I read this script, I was like, man, I'm really going to go for this. I'm going to give it my all, because it was such an amazing opportunity to be a part of an amazing show doing something so fresh. High school is hard, dice la prima attrice, che è Lea Michele. Sì, forse nel ricordo tutti diventiamo più così indulgenti verso il periodo del liceo, ma high school is hard, è un periodo difficile. You have to get by è un phrasal verb, cioè quei verbi a cui attacchiamo una proposizione e gli cambiamo leggermente significato, poi con get, che è così universale e anche facile, quindi to get by vuol dire superare, cioè devi superarla, devi farcela, devi superare quei 4-5 anni in Italia. You have to get out of there, devi riuscire a uscirne vivo, naturalmente, possibilmente sano psicologicamente, as best as you can, insomma, al meglio, cercando di limitare i danni, ecco, potremmo dire in italiano, perché it's tough, naturalmente, when the going gets tough, the tough get going, quindi quando le cose diventano difficili, le persone toste vanno avanti, e però che appunto che il high school period sia un periodo difficile, credo che nessuno lo possa negare. E poi c'è ancora sempre questo spirito di Glee, devi essere te stesso e va bene comunque tu sia. Quindi questa espressione è molto bella, to stay tuned to who you are, to tune, naturalmente lo sappiamo dalla radio, no? Tuning vuol dire aggiustare, quindi devi essere in sintonia, la sintonia con chi sei davvero tu, non devi cercare di, come purtroppo a volte capita a tutti, di cambiare per piacere, per compiacere i most popular. Se non sei un most popular e sei un underdog, pazienza. Non sia mai, it's okay to be whoever you are. It's okay to be whoever you are. Questa splendida Amber Riley, che ha una voce strepitosa, che infatti soprattutto faceva la cantante, e anche lei ricorda in maniera piuttosto buffa il suo liceo. Sì, dice, I'm happy to know I'm not the only person who went through Melrose Place. Voi forse ci ricorderete, qualcuno ricorderà la serie Melrose Place. She went through Melrose Place. To go through vuol dire riuscire a superare, no? Quindi questo è il passato, il simple past, to went through. To go through vuol dire superare più o meno, appunto, con successo, sopravvivere a qualche cosa. Poi vabbè, appunto, ha letto the script e l'abbiamo detto molte volte, è il copione, e cosa si è detto? Nonostante lei fosse soprattutto una cantante. Si è detta, man, I'm gonna go for this. Man è un intercalare che in origine si rifaceva, era una cosa religiosa, quindi era come dire, oddio, signore, però poi in modo tra l'altro non come posso dire, offensivo nei confronti della religione, però viene usato per dire, no, questo è Dio mio, signore mio, questo lo faccio, I'm gonna go for this. To go for something vuol dire ci provo, ci metto tutte le mie energie, perché mi sembra una buona opportunità. Stiamo facendo un pieno di phrasal verbs e non ne abbiamo ancora avuti abbastanza, perché adesso ascoltiamo il terzo estratto. È un racconto di qualcosa di molto particolare, perché a settembre il cast di Glee è andato addirittura a chiudere il Nasdaq. Now please join me in welcoming Corey Monteith and Amber Riley. Come on up. I got to ring the Nasdaq closing bell, and that was amazing. Very cool to be here. Crossroads of the world. This is such a great city. And so they asked us to come out and push the button, so we got to push the button. And that was amazing. It was really crazy because they have like this, so you push the button, and then you have the sign where you're closing the Nasdaq, the closing bell and whatever, and you sign and it's, you're signing with chalk, but it appears electronically on the screen and then it's outside of the building. So our names were outside the building and our faces, it was really, really, it was surreal. And you're in there, it's so official in there. Ancora una cosa molto americana, il fatto che il cast di una trasmissione sia così popolare che debba essere chiamato per fare un'operazione assolutamente economica come quella della chiusura dell'indice Nasdaq. La closing bell appunto del Nasdaq, che non è più come una volta, come negli anni del boom di internet, il più importante indice di borsa, però comunque il secondo indice di borsa americano, perciò è un bello onore. Chi vorrebbe questo onore in Italia, andare a chiudere la borsa italiana? Nessuno, credo. Invece loro sono molto esaltate e c'è l'ospite che dice join me in welcoming, quindi dice a tutti gli operatori di borsa aiutate, unitevi a me, join me, e diamo il benvenuto al cast di Glee, perché they come on up, vengono su qui con me per fare questa cerimonia del closing bell, cioè la campanella di chiusura. Contentissimi Cory Monteith e Amber Riley, sono assolutamente thrilled, sono assolutamente veramente eccitati all'idea di aver chiuso il Nasdaq. E qui usano una parola che è un po' l'equivalente di bello, divertente, cool, che non it's very cool to be here. New York viene chiamata the crossroads of the world, questo direi che è assolutamente vero, non solo dal punto di vista finanziario, quindi crossroads è dove tutte le strade si incrociano, tutte le strade del mondo. Chi è stato a New York sa che c'è questa sensazione di essere un po' al centro di tutto. Dall'audio abbiamo capito che non hanno precisamente suonato una campanella, non avviene più così, bisogna solamente push the button. Push the button, però, certo, lei dice it was crazy because, yes, you push a button, but then, probabilmente perché si vuole conservare un'idea di tradizione, poi gli americani sono l'America è un paese giovane, quindi ha certe tradizioni molto legata, quindi in realtà you sign with chalk, cioè tu firmi con il gesso, quindi come era una volta quando è nato il New York Stock Exchange, però... But it appears electronically on the screen. Però ovviamente c'è una tu scrivi, ma così come con quelle penne che usano i grafici ai nostri computer, in realtà poi appare elettronicamente su uno schermo. E non solo su uno schermo, addirittura su un mega schermo, proprio tutto sulla sede del Nasdaq. Le immagini erano molto belle, outside of the building, cioè proprio fuori dal palazzo. E lei emozionata, la nostra Amber, come commenta? Because of course it's officially in there, perché ovviamente è una atmosfera molto ufficiale. Forse, ecco, questa è una grande differenza tra l'America e il vecchio continente. Loro sentono molto l'ufficialità, cioè l'istituzionalità della borsa, che per noi è forse una cosa che così tutto al più ci fa perdere dei soldi. Invece per un americano è una grande emozione, una grande official occasion. E stanno per diventare molto famosi anche da noi i ragazzi di Glee, che sono proprio trasmessi in questi giorni per la prima volta dai canali di Fox. Si conclude qui la nostra trasmissione di English 24 anche per questo sabato sera. Io ringrazio Paolo Corleoni in regia. Intanto vi ricordo anche l'appuntamento con English 24 in edicola da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.